Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. 15 giorni chiusi a casa, ragazzi. Come? Fate i post su Instagram, la vita perfetta, casa, copertina e Netflix. E adesso che dovete farlo? No. E ora che potete, ragazzi e ragazze, questo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di ogni età, è uno dei tanti messaggi di artisti, di donne, di uomini dello spettacolo, in questo caso la cantante Emma Marrone, che rientrano nella campagna del governo Io Resto a Casa. Questa campagna Progresso, perché ormai lo sappiamo un po' tutti, urge su tutto il territorio nazionale di muoversi il meno possibile, soprattutto di evitare di trovarsi tutti insieme appiccicati nei bar, agli aperitivi, alle happy hour, dal nord al centro, al centro-sud. Insomma, sono viste scene piuttosto indecorose. Quindi non esiste il diritto all'aperitivo, siamo tutti, nessuno escluso, l'ho già detto, delle tessere di un domino. Da quello che fa ognuno dipende poi il destino di tutti gli altri. Conte ha detto: questa battaglia si vince con il contributo di tutti, agiamo responsabilmente. E questo dovrebbe essere il mantra ormai da tempo, e per un po' di tempo bisogna sacrificarsi un po' tutti, compreso lo sport. Poi ci saranno degli aggiornamenti anche su questo, e poi fra un po' potrebbe tornare a parlare il presidente del Consiglio Conte, perché forse si potrebbe anche immaginare di allargare le cosiddette zone rosse o di farlo diventare tutto il territorio nazionale, cosa che è stata chiesta tra l'altro da diversi presidenti di regioni. Roberta Giordano con voi per i vostri commenti, la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp come sempre al 349-238-6666, 349-238-6666. Ci occuperemo di tanti aspetti sempre legati a questa benedetta epidemia di coronavirus, dalla politica al bollettino quotidiano, alla rivolta che c'è stata oggi nelle carceri, e poi con una buonissima notizia, almeno quella. Non vi rivelo nulla, ma già lo sentirete dai titoli. Poi, quindi, sintesi tra pochissimo della giornata e poi gli approfondimenti con gli ospiti per il Twitter. Seguite quello di Effetto Notte durante la diretta, oppure durante il giorno per alcuni aggiornamenti in anticipo. Roby con la Y, Linetta Bassa, Giordano. L'epidemia di coronavirus, secondo i dati della Protezione Civile, sono 7.985 i positivi in Italia, 1.598 più di ieri, gran parte in Lombardia, 463 i morti, 724 i guariti. Le regioni chiedono misure più restrittive. E arriva una buona notizia: il paziente 1 ha preso a respirare autonomamente. Poi ne parleremo. Le valutazioni dell'OMS, l'epidemia sta per diventare pandemia, giuste le misure aggressive dell'Italia, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Confermato dalla Cina, più del 70% dei malati guarisce. Le reazioni dei mercati: Milano chiude a meno 11%, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen rassicura dall'Europa tutta la flessibilità possibile. La rivolta nelle prigioni: evasi 20 detenuti dal carcere di Foggia, proteste in 27 istituti da Milano a Modena, 7 muoiono per overdose. Cinema: morto l'attore Max von Sydow, fu il preferito di Bergman, aveva 90 anni, è stato 2 volte in nomination agli Oscar. Partiamo quindi, come sempre, dall'evolversi dell'epidemia di coronavirus in Italia con il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Ne registriamo 102 guariti, per un totale dei guariti di 724. Abbiamo registrato anche 97 decessi, per un totale di decessi di 463. Per quanto riguarda il dato relativo alle persone attualmente positive al coronavirus, questo dato incrementa oggi di 1.598 unità, passa a 7.985. Quindi in pratica 7.985 positivi in Italia, 1.598 più di ieri, 1.280 solo in Lombardia, la regione più colpita per il momento, 463 morti, 724 i guariti. E la buona notizia è che tra i quasi guariti, lo speriamo, c'è il paziente 1, il podista di 38 anni di Codogno, che è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella subintensiva. È stato cioè stubato, dicono, dal San Matteo di Pavia, in quanto ha iniziato a respirare autonomamente. Lo ha già annunciato nel pomeriggio l'assessore al welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Il 38enne, manager dell'Unilever, è ricoverato appunto a Pavia, mentre sua moglie, incinta di 8 mesi, è tornata a casa. Ve ne avevo già parlato giorni fa, da qualche giorno dopo essere stata ricoverata al Sacco. Poi ne parleremo proprio con il responsabile del San Matteo di Pavia. Rivolta intanto oggi nelle carceri dopo lo stop ai colloqui per l'emergenza coronavirus in Italia. Una ventina di detenuti sono evasi questa mattina dal carcere di Foggia. Dalle carceri delle città più grandi agli istituti di pena di provincia, la protesta dilaga tra le celle. Dopo i 6 morti di ieri a Modena, 5 per overdose di farmaci, uno intossicato dal fumo, oggi la situazione più critica è a Foggia. In mattinata 100 detenuti hanno scavalcato le mura di cinta della casa circondariale, i più sono stati subito fermati, in una quindicina sono riusciti a fuggire rapinando le auto in transito, 4 di loro sono stati rintracciati un'ora dopo sulla tangenziale nei pressi e di Bari. Il carcere di Foggia resta tuttora in mano ai rivoltosi, non ci sono agenti all'interno. Rivolta anche nel carcere di Trani, detenuti sul tetto, a Roma incendi e danni ingenti a Regina Coeli e Rebibbia. Ore di tensione nel carcere bolognese della Dozza, dove si contano 5 feriti, 3 reclusi e 2 agenti. A Palermo in mattinata tentativo di evasione dal Lucerdone, un agente ferito e 2 intossicati a Pavia, nuova protesta nel pomeriggio a Bari e così alla Spezia, Rieti, Velletri e Teramo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi torneremo su questa ulteriore emergenza scoppiata oggi. Intanto sentiamo da questa scheda come ci si deve comportare nel muoversi nelle zone di sicurezza secondo le regole del governo. Controlli lungo le strade, negli aeroporti, nelle stazioni, ai caselli autostradali, autocertificazione per i cittadini che si spostano, rischio carcere per chi viola la quarantena. Queste le principali misure previste nella direttiva del Viminale per l'attivazione dei controlli nelle aree a contenimento rafforzato della Lombardia e delle 14 province interessate. Gli spostamenti in entrata e in uscita e all'interno delle aree di sicurezza, chiarisce il Viminale, potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o problemi di salute, da attestare mediante un'autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante, attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia, autocertificazioni la cui veridicità potrà essere verificata anche in seguito. Se lo spostamento non è giustificato, si rischia l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro. Divieto assoluto, invece, per le persone in quarantena che rischiano fino a 3 anni di carcere. Così Matteo Mauri, viceministro dell'Interno, a 24 Mattino. Sì. Uno incappa in un controllo e non ha le motivazioni quelle previste, può incorrere in 2 reati che sono entrambi penali, o il 650, una condanna fino a 3 mesi, oppure se gli viene riconosciuto l'attentato a salute pubblica, fino a 3 anni. Per i voli in partenza le autocertificazioni saranno richieste solo ai residenti nelle aree di sicurezza, per quelli in arrivo i passeggeri dovranno motivare il viaggio all'atto dell'ingresso e a Venezia i passeggeri delle navi da crociera non potranno sbarcare per visitare la città, ma solo transitare per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per ulteriori regole e provvedimenti è stata annunciata una conferenza stampa a momenti, così sembra, del Presidente del Consiglio Conte. Nel caso dovesse succedere, ovviamente vi farò sentire l'audio di Conte. Intanto in Europa sono oltre 15.000 le persone contagiate dal coronavirus. Secondo gli ultimi dati, i casi positivi sono 15.090, mentre i decessi si attestano a 520. I morti per il coronavirus nel mondo hanno superato quota 4.000. Questo è quanto emerge dalla mappa sull'andamento del virus della Johns Hopkins aggiornata University, con i dati sui decessi resi noti in serata dalla Francia e dal Canada e non ancora conteggiati. Livello di allarme elevato in Europa dopo che anche Cipro, con 2 casi, è diventato l'ultimo paese dell'Unione Europea a venire colpito dall'epidemia. I paesi con l'allerta maggiore fuori dall'Italia sono al momento Germania e Gran Bretagna, che hanno fatto segnare nuovi decessi. 2 vittime sono state registrate nel Nord-Reno-Vestfalia, il Land più colpito, e 5.000 persone sono state messe in quarantena in un piccolo villaggio del Brandeburgo dopo che un docente è entrato in contatto con una donna di Berlino contagiata. In tutto sono 3 le vittime tedesche, oltre 1.100 i casi. 4 i decessi oltre Manica, dove però i contagi sono poco sopra i 300 e si spera di limitare la crisi alla fase di contenimento. In Francia 1.200 casi, 21 vittime, per la prima volta è stata chiusa una classe a Parigi. In Spagna, dove siamo oltre i 1.000 casi, il governo parla di focolai fuori controllo con le situazioni più difficili a Madrid. Il premier Sanchez annuncia un piano d'impatto, ma intanto chiudono le scuole a Vitoria nei Paesi Baschi. Negli Stati Uniti in furia la polemica contro il presidente Trump, che minimizza il rischio e accusa media e democratici di esagerare la situazione coronavirus. Intanto nel paese si registrano sono 22 decessi e 600 contagiati. Le uniche buone notizie arrivano da Cina e Corea del Sud. Solo 40 nuovi casi a Pechino, in una curva che si fa sempre più discendente, mentre Seoul registra 248 nuovi contagiati, un calo consistente rispetto agli ultimi giorni. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il panico da coronavirus ha affondato le borse mondiali, travolge l'Europa che brucia 608 miliardi in una seduta. Piazza Affari ha chiuso a meno 11%, perde da sola 51 miliardi ed è il peggior crollo dal fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers nel 2008. Lo spread vola a 227,8 punti, il massimo dalla crisi di agosto. Poi ci torneremo anche su questi dati. Intanto parliamo delle misure economiche dell'Europa. Bruxelles si attrezza per fronteggiare l'impatto del coronavirus sull'economia. L'Ecofin ne discuterà la prossima settimana. Siamo in contatto con la BCE, dice la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Stiamo studiando tutte le opzioni per la flessibilità prevista dal patto di stabilità, puntualizza, e anche sugli aiuti di Stato, ma relativamente alle circostanze eccezionali, qual è il coronavirus? Il governo intanto continua a lavorare al decreto da 7,5 miliardi per aiutare famiglie e imprese messe a dura prova dall'emergenza coronavirus. Il provvedimento sarà varato in settimana. Fra le misure allo studio, dice a 24 mattino il vice ministro all'economia Antonio Misiani, c'è una moratoria sui prestiti. Stiamo lavorando per una moratoria molto ampia degli prestiti alle imprese e alle famiglie, perché riteniamo che garantire la liquidità, in particolare alle imprese, sia un punto chiave in questa fase in cui gli effetti economici del coronavirus rischiano di essere particolarmente pesanti. E sulle misure di sostegno alle imprese, Banca Italia ha il lavoro con il Ministero dell'Economia per trovare soluzioni su moratorie e garanzie pubbliche. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per l'Italia è l'ora più buia, ma se tutti seguiremo le regole, il paese si rialzerà. In un'intervista, Giuseppe Conte oggi cita Winston Churchill, commentando la stretta decisa dal governo per arginare la diffusione del coronavirus. Nel primo pomeriggio il premier ha partecipato ad una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocata al Viminale per fare il punto sulle nuove misure approvate nel fine settimana. Domani Conte vedrà anche i leader dell'opposizione per un confronto che riguarderà anche gli interventi economici allo studio del governo. Dal centrodestra, nel frattempo, il segretario della Lega Salvini oggi propone di estendere a tutta Italia le misure sanitarie in vigore nella zona rossa. A farlo è anche il leader di Italia Viva Renzi, che a sua volta chiede a Palazzo Chigi di richiamare in servizio l'ex capo della Protezione Civile Bertolaso per gestire la crisi, una proposta subito rilanciata anche dal presidente di Forza Italia Berlusconi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. All'estero adesso la coalizione di paesi volontari dell'Unione Europea prevede di prendersi fino a un massimo di 1.500 bambini migranti fermi in Grecia, afferma la Germania. Il presidente turco Erdogan dovrebbe aver incontrato oggi i leader europei a Bruxelles. Ieri intanto, sempre Erdogan, presidente della Turchia, ha invitato Atene ad aprire le porte a far andare i migranti anche negli altri paesi dell'Unione Europea. 298 civili uccisi mentre andavano in vacanza. Il volo MH17 da Amsterdam a Kuala Lumpur nel luglio 2014, oggi il via al processo. Quello partito oggi in Olanda è il primo processo penale per omicidio in relazione all'abbattimento di un aereo di linea. La vicenda riguarda il volo MH17 della Malaysia Airlines, abbattuto mentre sorvolava l'Ucraina nel mezzo della guerra il 17 luglio del 2014. 298 le persone a bordo di 10 diverse nazionalità che hanno perso la vita. 4 le persone sospettate per il disastro, ma è improbabile che prendano parte al processo. Gli investigatori affermano di avere la prova che il sistema missilistico Buk, che ha abbattuto il Boeing 777, provenisse da una base militare in Russia. L'ipotesi è che l'attentato sia stato compiuto da separatisti ucraini filorussi con l'aiuto e la guida di dirigenti del governo di Mosca. 3 degli uomini sospettati sono russi, 1 proveniente dall'Ucraina orientale. La Russia, dal canto suo, ha ripetutamente negato il coinvolgimento nell'attacco mortale. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E adesso di nuovo in Italia. i viaggi di Radio 24. A proposito dell'emergenza del coronavirus, la scuola non si ferma, anzi da questa esperienza potrebbe uscire anche migliore. Compiti dati attraverso il registro elettronico, insegnanti impegnati in lezione a distanza. Viaggio questa settimana a Radio 24 nelle scuole più innovative del nostro paese, perché quello che stiamo vivendo in questi giorni è un passaggio epocale per la didattica, di cui scuola e insegnanti fanno bene ad approfittare. Ne è convinta Daniela Lucangeli, psicologa dello sviluppo e prorettrice dell'Università di Padova, intervistata da Maria Piera Ceci. Partiamo quindi da qui nella prima puntata di questo viaggio. Allora, io qui direi che per la situazione che stiamo vivendo, la didattica a distanza ha fatto una rivoluzione, perché è la prima volta che non sono i ragazzi ad andare a scuola, ma è la scuola che va ai ragazzi. Ma a livello di apprendimento? A livello di apprendimento, la videolezione non fa altro che fare quello che fa il docente in presenza. Quello che cambia è il potere emozionale che questo determina, perché verrà ricordato da questi ragazzi con emozioni che sono emozioni di vicinanza dell'adulto, di alleanza dell'adulto, di impegno del docente, di volontà di andare ad aiutarli e a evitare la loro paura. Cioè l'apprendimento in questo caso è accompagnato da tutte emozioni positive. Chiarissimo. Quindi perché è molto efficace? Non perché è diversa la lezione, perché uno vede me via web o vede me in persona, ma è il significato che io ti vengo a prendere attraverso la web. Quindi gli insegnanti che non si stanno, diciamo, mettendo un po' alla prova perché non erano pronti, perché non sono stati formati a realizzare questa esperienza, stanno in qualche modo perdendo un'occasione storica. Infatti, svegliamoci, registrate un messaggio vocale, mandatelo ai vostri ragazzi. Nel messaggio vocale, che non vi serve una grande tecnologia, c'è una forza che dice: io mi ricordo di te, sono con te oggi. In cui tu sei forzatamente a casa, ma la scuola con te c'è. E questo è il primo viaggio. Passiamo a tutto un altro argomento. Siamo ormai quasi in chiusura di questa prima parte. Dopo una lunghissima carriera cinematografica, è morto in Francia Max von Sydow. È morto a 90 anni l'attore svedese Max von Sydow. Non ho mai tentato o sognato di fare cinema quando ero ragazzo, io amavo il teatro, spiegava nelle interviste, ma il suo destino l'ha portato a essere tra gli interpreti preferiti di Ingmar Bergman, con il quale ha girato 14 film, tra i quali Il Settimo Sigillo e Il Posto delle Fragole. Lo ricordiamo nell'Esorcista, in Minority Report, Guerre Stellari, sino alla saga televisiva Trono di Spade. Nato in Svezia il 10 aprile 1929, Max von Sydow è morto in Francia, dove viveva da tempo con la seconda moglie, la produttrice francese Catherine Brellet. E poi per chiudere c'è lo sport, sul quale ci aggiorneremo poi più tardi per capire insomma che iniziative si stanno prendendo. Spadafora, ministro dello sport, già da tempo chiede di fermare anche le partite anche maschili di Serie A. Il presidente del CONI Malagò, i presidenti federali riuniti a Roma hanno sospeso tutte le attività sportive a ogni livello, ma hanno chiesto al governo di emanare un apposito decreto che possa superare quello attuale in corso di validità. Di questo ci occuperemo poi nel corso della puntata. Aggiorniamo chi sta viaggiando, in modo che tra poco possiamo incominciare ad affrontare con gli ospiti alcuni argomenti in primo piano. One Express, il pallet Express. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Come sempre tantissime le notizie, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, in 60 minuti ricchissimi di aggiornamenti, la sintesi della giornata, anche i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, che numero per SMS e WhatsApp. Gli approfondimenti, che comincerò come sempre tra poco con gli ospiti. Mi dice Alvis da Lecco, mi scrive: ciao Roberta, io non ho ancora capito se lavoro a parte posso uscire in macchina a fare la spesa per forza, Alvis, perché sennò come si fa a mangiare e avere almeno, diciamo, i beni essenziali? L'importante, insomma, è nelle zone di sicurezza non fare grandi viaggi inutili, non andare avanti e indietro, insomma, senza un'utilità ben precisa. La spesa, uno da casa, insomma, va al supermercato, non è che farà tutti questi chilometri con la macchina. Poi qualcuno che sta già commentando sulla pagina Facebook ha scritto una serie di cose, anche del fatto appunto che siamo tutte delle tessere di un domino e che quindi ognuno ha la propria responsabilità rispetto agli altri. Dice per esempio Intanto Marco, e sulla campagna Io resto a casa lanciata dal governo, dice: dopo il lavoro tutti a casa, ci presenteremo puntuali con la nostra giornalista preferita e un po' di sana informazione, che sarei io. Ringrazio per la generosità, Marco, ma mi sembra un'ottima abitudine, tutti a casa, in modo che a quest'ora sarete aggiornati su tutto ciò che di importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero. Ve lo racconto come sempre ogni sera, in modo che un giorno non potrete dire: io questa non la sapevo. In questa emergenza mondiale e nazionale, per quanto ci riguarda soprattutto, ci mancava anche un'altra emergenza: la rivolta oggi dei detenuti in una ventina di carceri in tutta Italia, da Milano a Prato, da Padova a Palermo, dalla Spezia a Caserta, da Roma a Modena. A Modena anzi sono morti diversi detenuti, un altro nel pomeriggio nel carcere di Marino del Tronto, uno dei 41 detenuti trasferiti appunto la scorsa notte da quello di Modena dopo i tumulti, il saccheggio dell'infermeria. Sarebbe stata un'overdose. 20 sarebbero detenuti evasi dal carcere di Foggia. E poi intanto saluto la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, eccoci qua. Si sono viste immagini incredibili di detenuti sui tetti dei carceri, che poi bisogna capire anche come ci sono arrivati sui tetti, striscioni con scritto libertà, indulto. A Milano si sono messi anche, come se non bastasse, gli antagonisti a sostenere i detenuti, no? A gridare libertà, libertà. E il tutto poi sarebbe scoppiato esattamente, Raffaella, diciamo, potrebbe essere stato in realtà un pretesto questa dell'emergenza coronavirus? Esatto, c'è un doppio fronte, cioè da una parte il fatto che l'emergenza coronavirus è stata avvertita, e me lo confermava poco fa anche il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, è stata avvertita come l'ennesima occasione in cui il mondo del carcere viene considerato come un mondo patogeno per definizione, perché loro sono brutti e cattivi, quelli che hanno commesso dei reati, e quindi un mondo che deve essere sigillato, perché altrimenti, questo è il senso, diciamo, di come è stato vissuto all'interno del carcere, non dico che sia così, altrimenti loro dicono: perché sospendere i colloqui con i nostri familiari e non fare i controlli dei tamponi, per esempio, a tutti gli operatori che ogni giorno entrano all'interno del carcere? In realtà il decreto che introduce delle limitazioni, anche peraltro per un periodo molto breve, perché si trattava soltanto appunto di 15 giorni, limitazioni ai colloqui, amplificando invece la possibilità di fare telefonate o telefonate via Skype, è, diciamo, ha delle indicazioni molto precise e neanche così restrittive, solo che sono state vissute all'interno del mondo del carcere come appunto l'ennesima occasione di trascuratezza nei confronti del mondo del carcere. A questo si è unito il fatto che questa occasione e anche tutta l'attenzione, ovviamente molto alta, che in questo momento di grande emergenza c'è, è diventata un po' la leva per riproporre tutte le questioni di sovraffollamento e di vita all'interno del carcere, esatto, che da sempre i detenuti portano avanti. Non a caso, proprio oggi, in modo esplicito, un gruppo di detenuti sul tetto del carcere di San Vittore hanno detto al PM Alberto Nobili, che è salito sul tetto ad incontrarli, e hanno detto esplicitamente: il coronavirus non c'entra niente, anzi noi non vogliamo che i nostri congiunti si mettano a rischio in qualche modo in questi colloqui, noi abbiamo riproposto le nostre questioni, che sono quelle della vita carceraria, a cominciare dal sovraffollamento, perché in questo momento nelle carceri, nelle 189 carceri italiane, ci sono 10.000 detenuti almeno in più rispetto a quelli che dovrebbe essere la capienza regolamentare. Raffaella, tu tra l'altro hai sentito, appunto, dicevi Nobili, no? Ne abbiamo un passaggio, lo vogliamo sentire? Siamo saliti sul tetto per ascoltare le loro ragioni, anche perché la storia del coronavirus non ci convinceva, infatti non c'entrava assolutamente nulla il coronavirus, ma bensì avevano colto, diciamo, questa occasione di questo momento storico un po' particolare, un po' sui generis, diciamo, per rivendicare un trattamento carcerario migliore, a partire da una diminuzione delle presenze nelle carceri. A San Vittore sono in 1.200, dovrebbero essercene 700. Ecco, abbiamo sentito dalla sua voce, l'ho intervistato tu, il procuratore aggiunto di Milano Nobili, su quelle che dette dai detenuti sono le vere ragioni di questa protesta. Però Raffaella, scrive un ascoltatore, ma diciamo che è un po' girata questa ipotesi, che molti avrebbero protestato perché, non arrivando più persone, familiari, amici dall'esterno, non arriverebbero più gli stupefacenti, tanto è vero che si dice che a Modena siano morti diversi per overdose, compreso quello di oggi. Allora, questo è un tema molto grande delle carceri, cioè il fatto che nelle carceri italiane ci siano in questo momento 22.000 detenuti tossicodipendenti, questo è un grande tema, perché il tema è i tossicodipendenti andrebbero curati più che stare all'interno delle carceri, e questa è una questione normativa, non diciamo che va risolta a monte, quindi va risolta con delle norme diverse. Quindi effettivamente a Modena e in altre penitenziarie dove ci sono state queste rivolte sono avvenuti degli assalti alle infermerie, anche alla ricerca di metadone, e alcuni anche dei detenuti che sono morti anche proprio per overdose. Il tema della tossicodipendenza all'interno delle carceri è uno dei temi e delle questioni più importanti. Ma che cosa è successo con questa rivolta? È successo, in cui ovviamente c'è finito di tutto, e in cui ovviamente bisogna anche tenere presente che hanno partecipato circa 10.000-12.000 detenuti su una popolazione carceraria che è di 61.000 persone, quindi bisogna anche riportare le questioni ai numeri, che se anche hanno fatto tutta questa rivolta per cercare di chiedere migliori condizioni carcerarie, hanno ottenuto esattamente l'effetto opposto, perché con la distruzione del carcere di Modena, che adesso è inutilizzabile, e di diversi raggi in altri istituti, adesso devono essere spostati altrove, e quindi aumenta ulteriormente il sovraffollamento. Tra l'altro il ministro Bonafede della giustizia ha detto: chiediamo sacrifici anche chi è in carcere, lavoriamo per la ripresa dei colloqui con adeguate cautele sanitarie, dice, però la violenza giustamente non porterà a nulla, chi vuole tutelare la propria salute chiedo di avere pazienza. E poi appunto questa informativa dopodomani sulla situazione delle carceri, Raffaella. Tra l'altro arriveranno intanto anche delle mascherine comunque per il mondo del carcere, lo ha detto il commissario Borrelli. Mentre, strettamente sulla questione San Vittore, domani ci sarà un incontro tra appunto il procuratore aggiunto Nobili e delle delegazioni di tutti i raggi di San Vittore, così che, diciamo, in qualche modo loro, come abbiamo sentito dalla sua stessa voce, si faranno portavoci di queste richieste. Perché che cosa chiedono? Quello che oggi anche un po' i penalisti hanno rilanciato: chiedono che ci sia un maggiore accesso agli arresti domiciliari per chi è a fine pena, così da diciamo snellire la situazione delle carceri, e quindi consentire maggiore accesso anche ai percorsi di riabilitazione e di lavoro, che rendono la vita all'interno del carcere più sopportabile. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, grazie a te. Allora, intanto vedo Paolo che scrive, ricordo, pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure inviateli via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Paolo dice: ciao Roberta, sono un insegnante in una quinta elementare di un paesino sopra Genova. Questa mattina, con un'app di Google che si chiama Meet, ci siamo visti in conference con i bambini, erano presenti tutti, meno due che non hanno internet, a cui stiamo pensando di dare in prestito dei tablet con schedina. Ognuno ha condiviso come vive questo momento, abbiamo fatto lezione, una piccola verifica a ognuno, domattina matematica, è stato bellissimo, erano tutti contentissimi di ritrovarsi. Ci fa piacere questa testimonianza di Paolo, di questo insegnante di bambini di elementare, che vivono questa esperienza nuova per loro, naturalmente un po' più serena probabilmente di come la viviamo noi adulti, ma noi abbiamo quindi il dovere di essere più responsabili. Vedo diversi vostri messaggi. Marica che scrive: Roberta, sapessi che sconforto però vedere molti che fanno finta di niente, intere famiglie che vanno in giro con i bambini, persone che ti si addossano perché vanno di fretta. Ho visto anche tanti ragazzi agli aperitivi happy hours che dicono: ma noi a 25 anni nessuno ci può tenere chiusi in casa. Oppure un altro che dice, fatalista, beh, quando arriverà, sono cose veramente queste che fanno venire il sangue al cervello. Quindi ognuno deve essere responsabile del prossimo, anche perché i giovani che hanno questa presunzione di invulnerabilità rispetto a questo virus poi però sono dei diffusori, possono essere, lo portano magari a casa, ai genitori, ai nonni. In tutto questo, tra l'altro, parliamo anche della reazione dei mercati, perché il panico da coronavirus, un'epidemia che sta diventando pandemia, come ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha affondato le borse mondiali. E su questo chiamo in causa la nostra Eleonora Micheli di Radio Core. Ciao Eleonora. Buonasera. Sì, purtroppo è stata una giornata drammatica sui mercati finanziari, da poco ha chiuso anche Wall Street registrando una delle peggiori performance di sempre, il Dow Jones ha lasciato sul parterre oltre il 7%, poi anche le piazze europee sono andate male, anzi molto male, con Piazza Affari che è stata la peggiore, in calo di oltre l'11%, diciamo che i mercati sono stati quasi sotto controllo, cioè si muoveva tutto, ad esempio l'euro è schizzato oltre 1,14 nei confronti del dollaro, l'oro questa mattina è arrivato sopra 1700 dollari l'oncia, poi adesso un po' ritracciato, si è calmato, sta sui 1673, sono mercati che dimostrano assolutamente che c'è panico. Peraltro vorrei sottolineare che Trump, quest'oggi il presidente americano, ha cercato di sminuire dicendo che non c'è pericolo per l'americano medio. Sono giorni che lo fa. Sì, per il coronavirus, ma mi sembra che se negli altri giorni un po' di reazione qualcuno l'aveva seguito, oggi nessuno ha reagito alle sue promesse, alle sue indicazioni, quindi mi sembra che anche Trump non ha più credito sui mercati, che guardano altri numeri, quelli della diffusione del coronavirus nel mondo, e poi c'è anche il tema della guerra, diciamo, del prezzo del greggio, crollato di oltre il 20%, è arrivato addirittura a toccare un calo del 30%, siamo passati praticamente da $50 al barile del WTI ai $30 odierni, e questo perché ricordiamo proprio negli ultimi giorni c'è stato uno strappo tra la Russia in primo luogo e i paesi OPEC avrebbero voluto ridurre la produzione di petrolio in modo da sostenere il prezzo, la Russia non ha accettato, e a quel punto l'Arabia Saudita ha iniziato a fare super sconti e ha indicato anche che probabilmente innalzerà addirittura la produzione di petrolio in modo forse da mettere in ginocchio addirittura la Russia, quindi ci sono tensioni anche purtroppo sul settore del petrolio. Grazie Eleonora Micheli di Radio Core. Ciao Eleonora. Buon lavoro. Ciao Eleonora, e vedo ancora tanti vostri messaggi. Marco che dice: comunque si spera in un atteggiamento responsabile delle persone, l'inizio non promette granché, quindi Roberta stasera dacci dentro, io le mie raccomandazioni le faccio, io informo come posso e ognuno veramente deve essere responsabile, lo ripeto, siamo delle tessere di un domino, da ognuno dipende l'altro. Tra l'altro continua a essere annunciata a breve la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte, che dovrebbe comunicare altre misure probabilmente restrittive, quindi sono sul pezzo naturalmente. Ci prendiamo giusto una piccola pausa di riflessione e di respiro, voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, SMS e WhatsApp al 349 238 6666. Torno ratta come la folla. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, la notizia più importante in questo momento è che è cominciata la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte. Meritevoli di tutela. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «io resto a casa». Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta, saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. Quindi misure estremamente aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all'aperto in locali aperti al pubblico. Abbiamo e comprendiamo la voglia di socialità anche dei giovani, abbiamo visto tutti episodi, fotografie anche dove la movida, c'è molto divertimento, si consumano anche delle bevande al di fuori dei locali e dei bar. Non ci possiamo permettere più queste occasioni di aggregazioni che diventano occasioni di contagio. Credetemi, non è facile. Sono pienamente consapevole della responsabilità e anche della gravità. Sta annunciando misure restrittive per tutto il territorio nazionale. Ma sono costretto a intervenire in modo ancora più deciso per proteggere tutti noi e soprattutto le persone più fragili e più vulnerabili. Viviamo in un sistema in cui noi garantiamo la sanità e il diritto alle cure e alla salute a tutti. È un fondamento, un pilastro e direi la caratteristica della nostra, del nostro sistema di civiltà. Non possiamo quindi permetterci su questo di abbassare la guardia. Oggi è il momento della responsabilità. Noi tutti abbiamo una grande responsabilità. Conte in diretta, voi con me, stampa. Voi cittadini tutti con me. Penso anche a tutti i medici, gli infermieri che sono in trincea in queste settimane, che lavorano senza sosta, stanno facendo di tutto, con turni molto impegnativi per assistere e curare le persone contagiate dal coronavirus. Oggi nel prendere queste misure dobbiamo pensare anche a loro, che rischiano, pensate, con grande gesto di solidarietà la propria salute per curare la salute del prossimo. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro, dell'Italia, è nelle nostre mani e queste mani devono essere mani responsabili, oggi più che mai. Ognuno deve fare la propria parte. Ed è per questo quindi che da oggi varranno su tutto il territorio della penisola queste misure che noi abbiamo già predisposto per la parte settentrionale, come sapete, Lombardia più provincia, in più province, 14 province. Giusto qualche giorno fa. Abbiamo anche adottato in aggiunta un'altra misura per quanto riguarda le manifestazioni sportive. A questo punto, in questo contesto, non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni, le gare, le manifestazioni sportive, penso al campionato di calcio. Quindi dispiace dirlo, ma tutti, anche i tifosi, devono prenderne atto e non consentiremo neppure che possano essere utilizzate le palestre per ovviamente lo svolgimento di attività sportive. A questo punto, se c'è qualche domanda, prego. Barbara Fiammeri, ciao Barbara. Tutti. Nostra commentatrice politica del Sole 24 Ore, hai sentito, era nell'aria in realtà già da questo fine settimana, dopo questo allargamento, diciamo, di zona rossa a tutta la Lombardia più 14 province in Italia, era nell'aria anche con la richiesta, tra l'altro aveva cominciato Renzi, leader di Italia Viva, oggi anche Fedriga del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ma anche Salvini, un po' tutti, insomma anche gli altri presidenti di regione, a chiedere delle misure più stringenti, e a questo punto sono arrivate con questa annunciata conferenza stampa di Conte che le regole che sono valse finora appunto per le cosiddette zone rosse, per la Lombardia eccetera, devono valere per tutto il territorio nazionale, quindi il muoversi il meno possibile se non per quelle esigenze molto speciali che elencava Conte, no Barbara? Beh, insomma, sì, quindi... ciascuno di noi nella propria vita quotidiana, in particolare chi era fino a oggi al nord, ma già anche nel centro e nel centro-sud, stava già sperimentando, come dire, queste diverse modalità. Da domani quantomeno saremo tutti uguali, non ci saranno più lombardi, campani o laziali, saremo tutti oggetto, diciamo, dello stesso tipo di disciplina e di regole, cosa che si è resa necessaria perché il sistema sta collassando, cioè non regge più la crescita dei contagi, continua ad essere importante. Vediamo che nelle altre nazioni sta avvenendo praticamente la stessa cosa. Barbara, sentiamo se ci sono delle domande ulteriori. Della conferenza delle regioni Bonaccini, per avere garanzia in aggiunta alla videoconferenza che appunto mi potesse confermare che anche le regioni, per quanto di competenza, esprimevano il loro plauso al provvedimento. Chiaramente ho informato anche il Presidente della Repubblica di questa iniziativa. Queste misure entrano in vigore da domani mattina. Sentiamo se c'è un'altra domanda. Page, anch'io tre cose rapidissime. La prima, il meccanismo per gli spostamenti rimane, per le comprovate ragioni, rimane quello dell'autocertificazione, che pure è stato criticato da alcune parti. Seconda cosa, si pensa, sono allo studio, misure di limitazione o di blocco dei trasporti urbani o extra-regionali. Terza cosa, oggi è stata una giornata treni, pullman, anche da un punto di vista economico per l'economia. Le chiedo se la cifra dei 7 miliardi e mezzo che il governo ha messo sul piatto è superata, verrà aumentata e se verrà chiesta la sospensione delle regole europee. Grazie. Mi ha fatto tante domande. La prima riguarda se per quanto riguarda gli spostamenti, cioè rimangono confermate le giustificazioni. Esatto, quindi per quanto riguarda l'autocertificazione, certo, una modalità che ormai accolta in via generale nel nostro ordinamento giuridico, quindi è possibile, se richiesti di giustificare lo spostamento, autocertificare la ragione per cui ci si sta spostando. Ricordo però che le dichiarazioni rese nell'autocertificazione devono essere veritiere, perché se ci fosse una falsa, una dichiarazione tecnicamente non veridica, ci si espone a un ulteriore reato che si potrebbe aggiungere a quello già della violazione di uno spostamento non giustificato, in più falsa autocertificazione. Quindi bisogna stare attenti. Per quanto riguarda i trasporti, no, non è previsto, non è all'ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici, nella misura in cui, chiaramente, siccome il sistema produttivo ha queste condizioni, cerchiamo assolutamente di garantire la continuità del sistema produttivo, dobbiamo anche consentire alle persone di poter andare a lavorare. Quindi con le dovute cautele al momento non c'è nessuna misura. E terzo, la terza domanda riguarda lo scostamento del deficit. Noi stiamo predisponendo, come abbiamo detto, e abbiamo concordato in Europa una richiesta di scostamento per 7 miliardi e mezzo. Adesso stiamo ragionando, diciamo, ma non voglio anticipare nulla, stiamo ragionando sulla possibilità di precostituirci una richiesta, ecco, lo dico anticipatamente, ma non è deciso ancora nulla, una richiesta un po' più elevata, il che non significa però utilizzare questa eventualità, questa possibilità subito. Però potrebbe essere una modalità quello di chiedere uno scostamento, diciamo, maggiore. Barbara, io direi che qui ci dobbiamo lasciare. Volevi aggiungere qualcosa? Dice un ascoltatore, chiede a noi camionisti, nessuno ci obbliga a lavorare, gli altri stanno a casa. In realtà, parla di tutto il personale sanitario, che senza di loro, senza il personale sanitario, non andremo da nessuna parte. Ma anche noi giornalisti, ma anche chi guida pullman, autobus, i mezzi di trasporto, i commercianti, insomma. Prego, sì, Barbara, diciamo, per chiudere. Soprattutto in questo momento mi sembra che tutte le categorie debbano tacere rispetto a una categoria che ha sul fronte, cioè che è in trincea, che sono i medici, i paramedici, tanto di cappello, noi tutti gli altri, come dire, sono loro in questo momento la nostra forza più avanzata e quello da cui dipende, grazie anche al comportamento di tutti noi, se ce la mettiamo tutti, cioè se tutti rispettiamo le regole, è che è l'unico modo, come ha dimostrato la Cina, che sta di poterne uscire, uscendo da questo incubo, volta, solo rispettando le regole. Cioè non dobbiamo uscire, non c'è altra, non ci sono medicine, non dobbiamo uscire di casa, perché così consentiamo ai nostri ospedali di poter curare le persone, altrimenti i morti aumenteranno. Grazie Barbara Fiammeri, io resto a casa, continua lo slogan. Ciao cara Barbara, chiedo un ascoltatore atterrito, mi scusi Roberta, ma chi va a correre, fare jogging è bloccato a casa? No, anch'io ho il parco proprio accanto a casa, si va e si torna così in pochi minuti. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E la notizia in questi 60 minuti, Roberta Giordano con voi, l'avete sentita, la più importante. Poco fa il Presidente del Consiglio Conte in conferenza stampa che ha annunciato che le misure restrittive entreranno in vigore da domani mattina, di questo decreto, per tutta l'Italia. Quindi tutto il territorio nazionale che viene praticamente, per cui si crea omogeneità, non c'è nessuna regione diversa dall'altra a questo punto, provincia diversa dall'altra, le misure restrittive devono riguardare per tutti, quindi lo stare il più possibile a casa e per chi si muove, giusto perché ha necessità o di lavoro o delle emergenze particolari sanitarie, altrimenti c'è ancora questa autocertificazione, ma insomma deve essere corrispondente al vero. Vedo anche stop alle scuole e all'università su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile, quindi mentre prima era solo nelle zone di sicurezza in Lombardia, nelle alcune province, per tutto il territorio nazionale almeno fino al 3 aprile scuole e università chiuse, e poi lo stesso si fermerà tutto il mondo dello sport. Adesso però diamo anche una bella notizia che tutti aspettavamo con grande ansia, in realtà non solo per la persona in sé, che ovviamente per la persona, la sua salute, la sua vita, i suoi familiari eccetera, per i suoi affetti, ma anche per quello che rappresenta. Sto parlando del paziente 1 in Italia, ovvero il primo caso di paziente infetto da coronavirus ufficialmente, il podista, vi ricordate, di 38 anni di Codogno nell'Odigiano, finito in gravissime condizioni in terapia intensiva, poi trasportato all'ospedale San Matteo di Pavia. Bene, questo 38enne manager dell'Unilever, la cui moglie tra l'altro incinta di 8 mesi è tornata a casa da qualche giorno, è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella subintensiva, è stato cioè stubato, come si dice, in quanto ha iniziato a respirare autonomamente. Allora saluto il professor Francesco Moioli, che è responsabile della terapia intensiva della Fondazione del Policlinico San Matteo di Pavia. Buonasera professor Moioli. Buonasera a tutti. Quindi è un'ottima notizia, anche perché la stessa sua età aveva un po' sorpreso, non perché sia giusto che si ammalino i più anziani, ma perché si pensava che se si ammalavano solo gli anziani era perché il virus riusciva a colpire solo chi era debole, non tutta la popolazione a qualsiasi livello, no? Quindi un virus neanche tanto forte. Invece, avendo colpito un 38enne in più sportivo, questa cosa aveva creato un certo clamore, una certa ulteriore ansia, professor Moioli. Sì, certo, questo è comprensibile. Quello che posso dire è che il virus colpisce in modo direi abbastanza omogeneo le varie classi di età, risparmiando fortunatamente le persone, i bambini. Quello che poi fa la differenza che rende l'essere più anziano, magari con qualche comorbidità, un fattore di rischio, è la capacità di superare la malattia. Professor Moioli, ma adesso il podista 38enne è cosciente? Che situazione è effettivamente? Sì, certo, lui è stato risvegliato nei giorni scorsi alleggerendo i farmaci sedativi, ha ripreso piena coscienza ed è stato gradualmente svezzato dall'assistenza respiratoria. Da oggi è stato trasferito nella nostra terapia intensiva alla subintensiva che abbiamo approntato proprio per questi pazienti. È in respiro totalmente spontaneo con un pochino di ossigeno. Avete usato dei farmaci particolari, nel senso che possano poi essere utili? È vero che si stanno curando pazienti un po' in tutta Italia. Lui aveva dei riflettori particolari, no, addosso, questo paziente numero uno, professor Moioli. Sì, sicuramente aveva dei riflettori addosso, ma con lui abbiamo fatto lo stesso lavoro che stiamo facendo con tutti gli altri pazienti, ovviamente, e devo dire non è il primo che riusciamo a tirar fuori da questa condizione critica e a dimettere, certo, dalla nostra terapia intensiva. Devo dire, la prima paziente in realtà è addirittura più giovane, di 32 anni, che pochi giorni fa abbiamo potuto trasferire. Per quanto riguarda la strategia terapeutica, è sostanzialmente di due tipi: c'è una terapia di supporto delle funzioni vitali, in primo luogo della funzione respiratoria, che è la prima ad essere compromessa, e poi invece una terapia specifica nei confronti del virus. Quest'ultima però ha diciamo una natura un po' sperimentale, perché è un virus nuovo e quindi dobbiamo ancora imparare quali sono i farmaci che più facilmente lo possono colpire e fermare. Tra quanto, per chiudere, il professor Moioli, potrebbe guarire il paziente numero uno? Se per guarire intende uscire dall'ospedale e tornare dai propri familiari, non è una previsione facile, ma penso che il fatto di essere una persona giovane che prima di questa disavventura era in piena forma potrà rendergli questo percorso più rapido ed agevole. Grazie professor Moglioli, grazie di questa buona notizia e grazie del vostro lavoro preziosissimo. Grazie. Grazie, buonasera. Buonasera. Ricordo, responsabile della terapia intensiva della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia. C'è il nostro Dario Ricci, ma abbiamo soltanto 40 secondi. Dario, aveva sentito la conferenza stampa di Conte che era importante per quanto riguarda lo sport, Dario. Sì, è proprio quello che ha detto il presidente Conte, di fatto tutto lo sport italiano si ferma fino al 3 aprile, fatta eccezione per le manifestazioni internazionali che verranno ospitate nel nostro territorio, un assist al calcio in questi giorni che si giocheranno comunque a porte chiuse le gare di Coppa, ma insomma direi che ci aggiorniamo poi domani con maggiori dettagli. Grazie Dario Ricci. A un ascoltatore che protesta, dice: intervenga Mattarella, Conte fuori controllo. Conte poi ha specificato giustamente che è stata presa questa decisione insieme alle regioni e naturalmente informando il Presidente della Repubblica Mattarella. Qui mi devo fermare, ci aggiorniamo brevemente alle 22:00.